l'alternanza scuola-lavoro è stato un progetto calato assolutamente dall'alto senza interpellare minimamente gli studenti ed è sicuramente un percorso didattico che si inserisce all'interno di un'idea molto chiara del governo, del Ministero dell'Istruzione, che è quella di andare ad utilizzare gli studenti come manodopera gratuita di base, ovvero andare tanto ad agevolare le aziende con sgravi fiscali sui contributi dei propri lavoratori e, ad esempio, come le camere di commercio stanno facendo adesso, dare addirittura dei voucher aggiuntivi alle aziende. L'azione di ieri incontro Confindustria per noi è stato un momento per, diciamo, contestare fortemente un nuovo piano di sgravi fiscali che Confindustria vuole proporre. Tuttavia, diciamo, all'interno di questo ragionamento noi non siamo per niente contro l'alternanza scuola-lavoro, anzi, rivendichiamo il fatto che l'alternanza scuola-lavoro debba essere un percorso didattico, formativo e di qualità che non vada a sfruttare gli studenti, ma che consegni loro le chiavi di lettura del mondo del lavoro e soprattutto la conoscenza su tutti i diritti che gli permetta poi dopo di non essere sfruttato a loro volta. Anche perché ci ritroviamo in un momento in cui in un mondo del lavoro assolutamente precarizzato, già dalle scuole superiori adesso gli studenti vengono indirizzati verso questa mentalità. Per cui l'alternanza scuola-lavoro è obbligatoria e serve per accedere all'esame di maturità, quindi io piuttosto di non essere ammesso mi faccio sfruttare in ogni modo. Quindi insomma, già come anticipavi, non siete contro l'alternanza scuola-lavoro, ma come viene applicata sostanzialmente. Esatto. Quali sono i meccanismi? Di base l'alternanza scuola-lavoro vive poi con una progettualità rispetto alle scuole. Quindi ci sono scuole che magari per il tessuto produttivo in cui si trovano riescono a fornire dei progetti o grazie all'aiuto di sindacati, ad esempio la FIOM negli anni ha fatto ottimi progetti come il progetto DESI, il CNR dà dei progetti specializzanti ottimi sulla formazione. Il vero problema è nel momento in cui l'alternanza scuola-lavoro viene campata un po' in aria, fatta un po' a caso giusto per far fare i propri studenti le ore e gli studenti si ritrovano magari o a dover fare delle fotocopie o a dover stare fermi per delle ore senza fare niente, se no in casi magari un po' più complessi magari si ritrovano assieme a delle onlus, come il caso di un ragazzo a Laura Bassi che è dovuto andare in questa onlus che aiuta disabili senza aver nessuna formazione precedente e quindi sicuramente hanno messo tanto in pericolo lui, tanto anche i propri dipendenti, i propri assistenti e tutti quelli che dovevano assistere, e quindi soprattutto nessuno era stato preparato per l'arrivo dei ragazzi in alternanza, e quindi qua rientra anche una nuova figura chiave che è quella del tutor, tanto il tutor scolastico, tanto il tutor aziendale, che devono formare tutti quanti sia all'interno della scuola sia all'interno dell'ente o dell'azienda in cui si può fare alternanza, per fare in modo che non ci siano tanto dei casi di sfruttamento o se no, cioè di base che tutti i lavoratori dell'azienda devono essere a conoscenza del fatto che arriveranno degli studenti in alternanza scuola-lavoro. Fino ai casi più estremi che abbiamo visto nelle cronache del 2016, quando appunto i ragazzi che devono frequentare obbligatoriamente alternanza scuola-lavoro andavano a lavorare a McDonald's sostanzialmente, quello lì ha ben poco di formativo forse. Assolutamente no, quello è proprio sfruttamento massimo. Il vero problema è che poi ci sono tantissimi casi limite, ci sono quelli di Taranto, tutti i casi in Sicilia in cui gli studenti hanno dovuto lavorare anche nei giorni festivi, compresa la vigilia di Natale, compresa Pasqua, c'è il caso di Parma, ci sono tantissimi casi limite, quelli del McDonald's, a Zara, tutti quelli del campione dell'alternanza. Il vero problema è che a parte i casi limiti c'è un tessuto di sfruttamento che magari non è sentito tanto quanto quelli, però esiste. E come si svolgerà la vostra iniziativa? Sarà un presidio davanti Palazzo D'Accursio che avrà lo scopo di creare assieme agli studenti un'alternanza completamente diversa da quella che ci viene proposta, un'alternanza che sia veramente formativa, un'alternanza che veda tanto gli studenti in primis soggetto che va a determinare come verrà svolto il percorso, però verrà fatta anche con i lavoratori della FIOM, gli insegnanti, tutti quelli che vorranno partecipare. Noi ci ritroviamo in Piazza Maggiore dalle ore 9 e sarà una giornata di discussione, una giornata di confronto e anche una giornata che speriamo possa portare e lanciare poi questo percorso sull'alternanza. Di base sarà distribuita con dei gruppi di lavoro in cui si discuterà dello statuto delle studentesse e degli studenti in alternanza che stiamo tentando di costruire e che vorremmo costruire con tutti quanti per portarlo dopo il 13 all'interno dei consigli d'istituto, e invece un altro che è un progetto sull'orientamento al lavoro che vorremmo anche quello lì portare all'interno dei consigli d'istituto per dare le chiavi che dicevo prima agli studenti. quindi tutti i meccanismi che loro possono avere per andare a capire e comprendere il mondo del lavoro e non essere sfruttati. Ed infine somministreremo per tutti gli studenti che sono lì anche un questionario dell'alternanza, quindi di come è stata fatta la loro alternanza, di quali sono stati i problemi, per andare a costruire innanzitutto una mappatura delle scuole, delle aziende, degli enti, di come è fatta l'alternanza e per andare a dare un aiuto diretto nella quotidianità agli studenti.